Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Credo sia stata una bella sorpresa a giudicare anche dell'interesse che ha suscitato. Dopo il mio terzo anno, naturalmente volevo inventarmi qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. Allora sono andato a pensare chi potesse essere il top in questo momento in televisione e ho pensato a lei. E la novità è che non ci saranno le vallette. No, io farò il valletto moro e Maria il valletto biondo, la valletta bionda. Senti, tanti ospiti e qualcuno ancora da decidere. Beh certo, siamo appena all'inizio, ancora in una fase dove ci sono tante trattative, spero anche che si possa chiudere qualche star hollywoodiana come negli anni passati, ricorderete che c'è stata... Forse sarà un caso, sarà una coincidenza, che Fiorello si straccia le vesti improvvisamente, diventa un difensore dei poveri vecchietti davanti alla televisione, dice basta sangue in televisione, e in questo momento ne è sancito quello che io definisco un momento epocale della televisione generalista italiana, il vero compromesso storico, la vera entropia in cui si cancella definitivamente ogni differenza. Un personaggio chiave fondamentale della TV generalista italiana, che Maria De Filippi, detta Maria la Sanguinaria, entra a pieno titolo in quello che è il Sancta Sanctorum della televisione di servizio pubblico, che è il Festival di Sanremo. Il mio non è un giudizio di tipo moralistico, ma mi piace, mi diverte capire questo cortocircuito da cosa è originato. Beh, guardate, non è del tutto banale, casuale che dica il rappresentante del servizio pubblico Rai, quello per cui paghiamo il canone, che per dare forza a Sanremo si chiama un personaggio chiave della televisione italiana che lavora in quella che dovrebbe essere considerata la concorrenza, la TV commerciale per eccellenza, il cattivo, quello contro cui sono lanciati esorcismi, quello che ha cambiato gli italiani, che ha portato le immagini delle terre delle donne con le cosce scoperte. Improvvisamente entra tutto assieme, grazie dei fiorni, la Pizzi, i bambini, i buoni sentimenti, mi butto dalla balaustra, Pippo salvami la vita, e d'altra parte Maria De Filippi, il tronista, i vecchietti che ballano, la posta per te, la lacrima, il sangue, i mostri televisivi. Un genio assoluto della televisione, nulla da dire. Poi in questo momento sta accadendo qualcosa, sta accadendo che la TV generalista, di cui parliamo non con disprezzo, ma la osserviamo come una sorta di reperto archeologico, qualcosa che ancora rimane per un gruppo affezionato di persone, come una adunata di garibaldini che ancora vanno a portare le corone al monumento di Garibaldi, ecco, qualcosa del genere. Avveniva quando ancora ero piccolo, c'erano dei personaggi che si spacciano per garibaldini nel 1959, non so se era cronologicamente possibile, poi andano lì con la camicia rossa e portano le corone di fiori nel monumento di Garibaldi, nella piazza di snodo della mia città. Beh, oggi in realtà questi sopravvissuti della grande guerra dell'etere televisivo, che sono il pubblico tenace, tetragono, imperterrito, imperituro, che ancora affonda in quel divanetto dove sono rimaste impresse le impronte delle loro chiappe, come se fossero le mani dei divi di Hollywood nel famoso marciapiede, hanno davanti a loro l'idea che finalmente cadano gli steccati, cadano le barriere, è lo Schengen della televisione italiana, non serve più passaporto, non serve più cambiare canale, è tutto assieme, tutto ciò che rappresenta l'immaginario conservativo, rappresenta la formaldeide televisiva di una classe di spettatori che ha sostentamento, sopravvivenza con la televisione, si trova nello stesso luogo fisico. Beh, questo trovo che sia un momento meraviglioso e di questo oggi voglio parlare. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ma è stato ed è motivo di orgoglio partecipare al Festival di Sanremo. La mia è una partecipazione vera e propria a Sanremo. Quando parlo di partecipazione è perché quello che vengo a fare è proprio partecipare a questo festival, però non avrei mai accettato di partecipare al festival se non avessi assoluta stima di Carlo e del lavoro che fa. È la prima volta da quando non c'è il festival, da quando c'è il festival, che non ci saranno vallette. No, probabilmente no, magari aumenteremo il numero degli ospiti che scenderanno da quella scala nel Tutti Cantano Sanremo, probabilmente ci sarà. E questa è la cementificazione dell'idillio. Avete sentito? la voce vellutata di Maria De Filippi che si contrasta con la maschia voce di Carlo Conti, che danno l'annuncio di questo festival che non avrà assolutamente nessun cedimento al passato. Non ci saranno le vallette, quando già la rete è piena di persone che giocano sul fatto che la vera valletta sarà Conti e del conduttore sarà Maria De Filippi. È un festival strano, singolare, è un festival che sa tanto di quella sorta di momento fatale prima della grande guerra o prima dell'apocalisse. Non so cosa succederà dopo, forse non succederà nulla, però troverò interessante, divertente, soprattutto spaesante vedere questa sorta di contrasto. Sono due televisioni che sembravano inconciliabili, ma si rivolgevano allo stesso pubblico. L'una serviva a sentirsi buoni, l'altra serviva a sentirsi detestabili, però piacevano entrambi. Guai dire a me piace guardare il pomeriggio Uomini e Donne, piace guardare Tina Cipollari, no, non si può dire, però dire a me quanto era bello il Sanremo di Fazio o quanto era meravigliose le belle canzoni sul Festival di Sanremo, si può dire, capito? Adesso è tutto assieme, adesso si capisce che non ci sono più buoni e cattivi, si capisce che la televisione generalista, che ormai è come asserragliata in una sorta di fortezza Bastiani, circondata da tartari immaginari che non arriveranno mai, sarà lì e sarà rappresentato in un'unica serata, che è già una serata che dà fastidio, già qualcuno che scalpita, già D'Inolfi sta lì ciclostilando perché sarà il festival più gaio dei gai possibili, già gli spot che annunciano Sanremo sono oggetto di facezia, la rete, che in realtà è la cosa meno legata a Sanremo, trae vantaggio e divertimento da Sanremo. I due spot che lanciano Sanremo sono bellissimi, sono fatti in 3D con una grafica tridimensionale un po' âgée, devo dire, però per la RAI sembra già modernissima. Il primo rappresenta tre feti che ballano nella pancia delle loro madri, inquietanti, terribili, enigmatici. Tre feti ballano al ritmo di Non ho l'età per amarti, che poi era una canzone cantata di Giulio Cinquetti, era una ragazzina che diceva che non era l'età per cominciare a fare le cose zozze, non so quale sia il nesso. I tre feti ballano, bellissimi, variamente colorati, con tre tonalità di Pantone che va dal bianco al marroncino al nero scuro, ballano. Il secondo è ancora più inquietante, il secondo sono tre di una famiglia di alieni che appare improvvisamente, alieni quelli verdi, gli omini con la testona, c'è anche l'alieno figlio col pisellino, e ballano La terra promessa. Tutti stanno scommettendo quale sarà il terzo spot. Cosa verrà dopo queste cose qua, che nulla hanno a che fare poi con la grande pax fra la De Filippi e Conti. 800240024, dai, divertiamoci questa mattina, parliamo un po' di Sanremo, anche se non lo guarderete, anche se direte che non guardate con la televisione o direte che vi piace moltissimo, parliamo di questo evento dell'antica vecchia televisione. La prima persona che invito a parlarne, una persona informata dei fatti, è Marta Cagnola. Marta Cagnola, buongiorno. Ciao Gianluca, tu vuoi sapere qual è il terzo spot? Sì, voglio sapere, già lo sai, dimmelo, anticipa. So, l'ho visto. E qual è? L'ho visto. Che si vede? Sono degli animali nella fattoria. Tutti ma lo pensavano. Cantano Non amarmi. Non amarmi? Ecco, tutti io, nelle scommesse che stanno facendo sul web, cioè, appariranno gli animali, perché nella sfilza delle banalità mancano gli animaletti. Che animali sono? Che animali sono? Descrivili, che è importantissimo. C'è il cavallo, c'è l'asinello, c'è la mucca e ognuno canta un pezzettino. Il porcello non c'è? Il maialino non c'è? Non me lo sai che credo, di, ma non me lo ricordo. E ballano? L'ho visto una volta sola. Bellissimo. E il quarto si sa già? Prima. No, non sono solo tre, sono questi tre. Senti, io so che sei in un momento molto delicato, stai facendo la tintura, però sì, puoi parlare, penso. Sì, mi hanno dato il permesso. Perché ho lo shampoo tra un po'. Allora, innanzitutto tu, che quanti Sanremo ti sei fatta in vita tua? Una decina? Il prossimo è il 17 a Sanremo, sì. Concordi con me che è un momento di passaggio importante, perché la De Filippi, diciamo, il suo staff, i suoi cantanti, i suoi ragazzi erano sempre presenti, ma mai, era anche lei apparsa, ma mai in maniera così chiara. Lei ha lo scettro di Sanremo, è chiaro che lo condurrà lei Sanremo. Sì, devo dirti che la frase che hai mandato in onda, che ieri lei ha detto in conferenza stampa, una conferenza stampa dalla quale lei era tesissima, è difficilissimo capire gli stati d'animo di Maria De Filippi, però Sanremo per me, per lei è comunque qualcosa che conta. Già stabilire se ha un'anima detto... prima, scusa, per capire sì. Lo stato. Beh, dai, ce l'avrà, credo. Ma no, il suo straordinario vantaggio di essere al di sopra di tutto e di tutti, che lei è proprio una macchina la televisione. Allora, sai che secondo me la frase che lei ha detto, la mia sarà una partecipazione, è quella decisiva. Cioè, lei ha detto, io mi metto in gioco facendo questo Sanremo, perché a un certo punto uno che fa questo mestiere deve anche prendersi una soddisfazione, un rischio e fare una roba che magari non farà mai più nella vita. E un conduttore cosa deve fare una volta nella vita per essere nell'Olimpo o anche per giudicare la propria carriera conclusa? Sanremo. Beh, conclusa lei agli inizi, giovanissima, voglia ancora. Ma insomma, grazie a Dio, viva Dio. No, però lei ha detto la mia sarà una partecipazione. Beh, e fa la modesta, chiaro, mica può dire vengo qui, spacco l'anima a tutti e vinco no, io. No, lei in realtà ha detto, di solito quando io faccio una trasmissione, non solo la conduco, ma curo ogni minimo aspetto e decido tutto io. Questa è ragione. Io mi fido. Questa è ragione. Ecco, io qui sono venuta fidandomi di Carlo Conti, anche per questo lei dice, io non prendo un compenso perché non è il mio festival. Io vengo e Carlo Conti mi dirà quello che devo fare. Secondo me, da quello che ho visto ieri, riusciranno anche a divertirsi abbastanza. Non so quanto questo sarà bello. Beh, da oddio, vedere. Non è che noi paghiamo il canone per far divertire loro, onestamente. No, ma questo dico, non so quanto sarà bello da divertirsi, ma sicuramente i fan di Maria De Filippi, cioè già sono lì tutti. Io sono una grande fan di Carlo Conti, quindi anch'io grande stima di Carlo Conti perché è una persona estremamente seria. E in televisione questa cosa non è per niente scontata. Io ho visto Sanremo in cui non c'era né l'idea, né il conduttore, né i testi, una conduttrice che si è ammalata la mattina e hanno dovuto rimediare tutto con improvvisando tutta la serata. Sì, però queste sono cose, vedi, Marta, che notiamo, no, gli addetti ai lavori notano. Lo spettatore lì davanti non vuol sapere che succede dietro, vuol vedere. No, ma lo spettatore che è davanti cos'ha? Maria De Filippi che potrebbe fare qualsiasi cosa per il suo pubblico. Cioè Maria è Maria. Cioè, è fuori da ogni discussione. È che però non noti che il fatto che la RAI di servizio pubblico abbia bisogno di farsi fare questa iniezione di formaldeide per avere un aspetto ancora un po' più fresco, che in fondo è il personaggio chiave della sua concorrenza, è la spina nel fianco più dolorosa al servizio pubblico. Magari ce l'avessero Maria De Filippi a condurre i loro programmi, non ci sarebbe Fiorello che si lamenterebbe questa mattina dei programmini pomeridiani con l'accetta in mano. Ma io ti chiedo, era la RAI che ne aveva bisogno o è stato Carlo Conti che ha fatto due festival da record, questo è il suo ultimo, quindi ha messo l'asticella talmente in alto che ha detto io voglio Maria De Filippi, perché io ho fatto un Sanremo da 10, uno da 11, adesso ne voglio fare uno da 12. Ma il merito sarà della De Filippi, non suo. E lui però mette le mani avanti, dice anche giustamente, io oltre che conduttore sono direttore artistico. Pensa che lui il terzo Sanremo non lo voleva nemmeno condurre, il terzo lui lo voleva fare solo come direttore artistico. Ma dicono tutti così poi alla fine, dai. Ma guarda, sai che Carlo Conti è una persona veramente molto, vabbè, ho capito, molto rigorosa, molto severa. È nel tuo pantheon delle persone che questo da, poco ma sicuro, ma io lo dico sempre, ma lo dicevo da prima. Io sono, vabbè, sei il sindrome di Stendhal con Carlo Conti, devi dirmi delle cose più oggettive, onestamente. Ha chiesto una stampella alla concorrenza, è così, dai. No, certo, lui ha detto io voglio fare una cosa per cui gli ascolti saranno fortissimi. Ah, sicuro, questa nessuno è una bomba. Dirà il Sanremo dell'anno scorso era meglio e soprattutto quello che verrà dopo, e anche qui c'è qualcosa di interessante che è successo ieri sera, quello che verrà dopo dovrà dire, cavoli, però il Sanremo dell'anno, il 3 Sanremo di Carlo Conti, perché guarda che è uno shock, basta vedere cosa è successo a Fazio, fare un Sanremo che è andato bene e poi uno che non va altrettanto bene. Cioè Fazio dal secondo Sanremo, che poi era il suo terzo, che non è andato bene, sogna di rifarlo per vendicare. Sì, poi vedi Marta, sono discorsi molto divertenti e interessanti, però ripeto, sono da addetti ai lavori. La gente ha già dimenticato il Sanremo di Fazio, salì davanti quelli che ci stanno. Questo perché lui ha preso Maria, lui ha preso Maria per se stesso, per fare un grande terzo Sanremo. Vabbè, diciamo, non perché la Rai avesse bisogno di Maria. Cioè, non credo che una decisione del genere non sia condivisa da tutta l'azienda, cioè è una decisione anche politica, diciamo, importante. Ma poi, bello, sai che in Rai qualsiasi cosa, cioè anche se uno sposta una matita l'azienda non la condivide, perché poi ovviamente ci sono quelli che dicono ma ci sono tanti conduttori in Rai. No vabbè, questa no, è una facezza che dicono gli interni Rai. Senti, dimmi questa cosa delle vallette, però la mancanza di vallette, che in realtà poi non sarà così, ci saranno comunque dei personaggi chiave. Ci saranno dei personaggi, però la cosa che a me fa un po' sorridere è che la valletta, poi ancora si chiede la valletta more, la valletta bionda, ma siamo ancora... Beh, qua ce l'hanno, scusa, c'hanno un signore nordafricano e una signora bionda. mezzo, esatto. Cioè la valletta mora e la valletta bionda, preferibilmente o italiane, un po' stupidine, o straniere che incespicano con l'italiano, era un'invenzione di Pippo Baudo, quindi quello era il Sanremo anni 80-90. Senti, secondo te ci sarà una risumazione di Pippo Baudo che riapparirà, farà signore, signore, perché piange sempre, fatemi fare ancora un Sanremo, posso morire felice. Certo. Guarda, io non so cosa dire, nel senso che lui è tanto contento di aver fatto questa Domenica In, che è andata anche abbastanza bene, e lui lo vorrebbe tanto, non lo so, nel senso che se lui si accontentasse di fare così il grande vecchio, la grande, ma potrebbe farlo. Lui invece lo vuole fare proprio da conduttore, da direttore artistico. Bello, guarda, lo chiameranno, sarà sul palco, canterà il suo nome Donna Rosa, farà il signore e signori, presenta Mino Caruso, E poi sarà felice. Fermo un attimo, sentiamo Enrico, primo ascoltatore, 800240024, che ne pensate di questo Sanremo? Non dite con tanti problemi. Sanremo fa parte del costume italiano, è la storia d'Italia, volenti o nolenti ne sarete contaminati anche se non lo guardate, quindi date un vostro giudizio. Enrico, io direi guardiamo alle canzoni, perché Sanremo è canzoni innanzitutto. Sì, ma non è mai stato, non è mai stato questo, mai. A prima impressione mi sembra che sia una bella alleanza tra il casting di Sanremo e Amici, certo. Cioè la TV del digitale che va contro, fa la corazzata contro la TV satellitare dell'X Factor di Sky. Una battaglia del genere. Avevano bisogno entrambi di corroborare la loro squadra, sia la De Filippi con Amici, che stava accusando forse qualche segnale di debolezza, sia soprattutto la Rai. Francamente, canzoni memorabili uscite da Sanremo o nuove proposte uscite da Sanremo memorabili negli ultimi anni, mi sforzo ma non me ne vengono. Scusa Enrico, visto che mi sembri informato dei fatti, la campagna, diciamo, di lancio di Sanremo attraverso gli spot tridimensionali coi feti e con gli alieni vorrebbe essere, nella mentalità che spesso galleggerà, di catturare il pubblico dei giovani, un tentativo in questa direzione? Ma io credo che la De Filippi stessa con il suo vivaio sia molto più aperta ai giovani che non Carlo Conti, che guarda invece un pubblico più tradizionale da divano della Rai, della vecchia televisione. Quindi loro sperano di mettere su quel divanetto insieme ai nonni e ai genitori anche qualche nipote, ecco, questa è la cosa. Ma ormai con la proliferazione dei mezzi e dei canali, che non sa nessuno dire quanti giovani stanno attaccati a YouTube piuttosto che alle altre reti che si trovano online rispetto alla televisione col telecomando, si fanno dei tentativi, come succede spesso in casi del genere, quando c'è grande disorientamento ci si rimedia a questo grande disorientamento con le grandi alleanze. Questa mi sembra una grande alleanza, è un'alleanza epocale, diciamo, i governi centrali si alleano per fare una barriera contro gli invasori e i barbari che verranno lontano. Fermiamoci un istante, tra poco 800240024, che ne pensate del nuovo Sanremo? Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Una terra promessa, un mondo diverso, dove cresce i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Tutti cantano Sanremo. Questa era la famiglia di alieni che ballava la terra promessa. Oggi Marta Cagnola ha fatto uno scoop, ha rivelato a quelli che stanno già scommettendo su Facebook quale sarà il prossimo spot orripilante. Sarà con gli animaletti tridimensionali 3D che ballano, gli animali della bella fattoria. È una cosa fantastica. Allora, stiamo parlando del prossimo Festival di Sanremo, stiamo parlando per le mutazioni strutturali, per la grande Pax, per Maria De Filippi che prenderà lo scettro della conduzione, per questa fusione, sarà uno spettacolo fusion totale, dove la TV della De Filippi andrà ad inserirsi, a collimare e a sovrapporre probabilmente una TV fatta di passerelle, di fiori, di ospiti, di comici, di vallette, di baci, di amore, di pensieri, di nostalgie, che è quello che rappresenta comunque l'ossatura fondamentale, il sancta sanctorum nell'anno liturgico televisivo che è il Festival di Sanremo. Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno. Andrea Amato, direttore responsabile di www.tvzoom.it, che è un sito importante che si occupa quotidianamente di analisi della televisione. Il tuo punto di vista, sei d'accordo che questa è una sorta di momento abbastanza importante, un'alleanza, una pax televisiva, ma ancora di più un compromesso storico, o fa parte comunque delle normali dinamiche del creare un evento a Sanremo? Ma veramente era è un evento che dopo il ventennio berlusconiano, in cui l'editore di Mediaset controllava di fatto attraverso la politica anche le tre reti Rai, sembrava persa, cioè sembrava un'epoca ormai tramontata. Invece ieri Carlo Conti ci ha stupito. Ma in quella che da qua il 7 febbraio sarà una messa cantata, vorrei provare invece a instillare il dubbio. Siamo così convinti che Maria De Filippi sia un vero valore aggiunto per il Festival di Sanremo? Lei che fa il suo successo è dato dalla ormai navigata liturgia dei suoi format e dalla sua il suo originalissimo modo di fare storia. Ma perché rischia? È una delle donne più accorte che abbia mai conosciuto, perché dovrebbe rischiare? Ma infatti, però lei ha messo le mani avanti tre volte ieri in conferenza stampa, ha detto non ho partecipato alla costruzione del festival, farò quello che mi diranno gli autori di Carlo. Poi il festival non ha bisogno di me per fare audience e come ultima cosa vengo gratis. Cioè, ha proprio messo le mani avanti per dire io vengo perché ho voglia di farlo e perché nella mia carriera probabilmente mi serve anche ho voglia dello sfizio di mettere anche la bandierina su Sanremo, però forse non è il mio habitat, non è il mio ritmo e quindi inizio a mettere le mani avanti, in più non mi faccio pagare così nessuno potrà dire perché abbiamo pagato Maria. Hai detto una cosa molto giusta, il vengo gratis che nel mondo dello spettacolo è una bestemmia, diciamocelo chiaro, certo. Solo gli sfigati lavorano gratis, detto da una persona che probabilmente ha un mercato vastissimo, chiunque la vorrebbe lavorare con sé, è sicuramente un valore di mercato molto alto, il fatto che vengo gratis un po' la responsabilizza, come dire, certo. Faccio volontariato per una onlus, mi do da fare qualche giorno, poi se la fame nel mondo non la debellate, che volete da me, qualcosa del genere? Sicuramente, anche perché Nostra Signora dell'Auditel sa bene che andare oltre gli 11 milioni dell'anno scorso, della finale dell'anno scorso, gli 11,8 di quella del 2015 non è così semplice. Dovrebbero fare un voodoo e tirar fuori gli zombie, perché ormai i moriture sono tutti lì davanti, 11 milioni non credo ce ne stanno di più. Esatto, e quindi lei sa bene che se non... non porta Sanremo al 15 a 15 milioni o a 20 milioni e quindi si vede qual è il suo valore aggiunto, dice se anche rifacciamo 11 milioni io l'avevo detto. Senti, ti faccio una domanda, è una previsione, non sei Nostradamus, secondo certo. Te Mediaset controprogrammerà o farà, diciamo, metterà vasellina dappertutto che Maria trionfi? Ma Mediaset sono anni che non controprogramma perché non ne ha la forza e quindi piuttosto che bruciarsi in momento di crisi dei contenuti premium ha sempre controprogrammato film di terza quarta visione. Cioè l'unica era lei che poteva controprogrammare, diciamo la verità. Esatto, esattamente. Dubito che andranno a maggior ragione quest'anno a inventarsi qualcosa di strano. Quando ieri Maria De Filippi ha detto in 3 minuti che Silvio Berlusconi mi ha dato il permesso, io ho esclamato e te credo, cioè la consacrazione della regina degli ascolti di Mediaset, anzi ormai Mediaset sì, sta in piedi grazie a Maria De Filippi, che viene celebrata nella TV di Stato. Ma non credo che abbia mai avuto bisogno di chiedere il permesso a Pier Silvio per fare qualcosa, onestamente. Beh, probabilmente per forma. Formalmente sì, ma non credo che c'è mai stato uno scontro così diretto in cui i pareri erano contrastanti. No, certo, figuriamoci. Assolutamente. Chicco, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista. Sì, sto aspettandola. Può sentirmi? Perché sono in macchina, mi scusi tanto. Sì, infatti sta urlando, ma la sentiamo bene lo stesso. Ah bene, allora parlo piano. Allora, niente, io mi sono permesso di intervenire a questa cosa in quanto musicista. Io sono un musicista, cerco di essere il più breve possibile. Da circa 42 anni suono la batteria, io insegno musica, quindi parlo un po', insomma, da addetto ai lavori, mi passi questo termine. E sono un po' sconcertato, ma mi creda, un po' tutta la categoria dei musicisti in Italia. Perché non vi chiamano Sanremo? Sconcertati da queste scelte, secondo me molto azzardate, per esempio di una direzione artistica data a personaggi come Carlo Conti, cioè, e veramente ci bisognerebbe davvero che si facesse uno sforzo. Ma scusi adesso. La televisione è un'attività imprenditoriale. Carlo Conti ha fatto gol nelle due precedenti edizioni, quindi ha funzionato. Quindi sì, perché no? Infatti, dottore, mi scusi se la interrompo, vengo al nocciolo della questione. Si parla di musica, no? Si parla di grande musica italiana. Allora, un conto è lo share, oppure i dischi venduti, un conto è la qualità musicale. Chicco, siamo d'accordo, però fa un discorso un po' di lana caprina. Chi mette su Sanremo deve far quadrare i suoi conti, quindi deve fare ascolto. Se poi le canzoni hanno successo o no, è un'altra strada. Ma questo è sempre stato così, dai tempi di Nilla Pizzi in poi è cambiato qualcosa. Sanremo è un grande evento televisivo, un grande evento che ingloba in sé tutta una serie di interessi. Deve essere bella televisione che funzioni, bella brutta che sia che funzioni. Alla fine, se fa molto ascolto, Sanremo è riuscito. Se fa delle canzoni che passano la storia, nessuno si ricorderà che sono passate per Sanremo, e questo è il fatto. Non cadiamo più nell'idea, ma Sanremo, il fatto musicale è secondario. Adesso un bello spettacolo che trattenga più persone possibile davanti, che rimangano e faccia un bel ascolto. Per il resto ci sono tante manifestazioni sulla qualità musicale, capito? Nessuno, perché ha vinto un Sanremo, poi pochi casi rarissimi è passato alla storia. Quest'anno addirittura mi pare che inviteranno i Jalis, che è l'esempio più emblematico del fatto che è indifferente chi vinca o chi non vinca Sanremo rispetto alla riuscita del Festival di Sanremo. Sei d'accordo, Andrea Amato? Assolutamente, infatti quando da ormai 3 anni Carlo Conti continua a dire l'importante sono le canzoni. Ma sì, ma quando mai? È evidente che è una... si nasconde dietro un dito. Cioè io farei un test, chiederei al pubblico: mi ricordate chi ha vinto gli ultimi 3 festival di Sanremo? Non so quanti si ricorderanno chi ha vinto gli ultimi 3 festival di Sanremo. Così a bruciapelo. Nemmeno io mi ricordo. Vedi, come vedi, nulla passa la storia di Sanremo. Sanremo ci ricordiamo ancora le canzoni epiche, in un momento in cui l'Italia era un paese molto meno complesso, in cui esisteva soltanto se no una televisione, in cui era centrale l'evento di Sanremo. Oggi le canzoni è molto più facile veramente che qualcuno noti un cantante, un artista, perché fa X Factor piuttosto che Sanremo. Ci fermiamo un istante, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Non ho l'età. L'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai. Non voglio fare quello che a tutti i costi deve criticare, ma immaginate questa musica, vedere 3 feti che ballano dentro le pance delle loro madri, sedute, penso in una sala d'aspetto di un ambulatorio, le madri battono la musica tambureggiando sulle loro pance, all'interno sono i 3 fetini che ballano. Cosa c'entrano con Gigliola Cinquetti, che parlavano aveva l'età per far l'amore, 3 poveri esserini attaccati al cordone ombelicale, già costretti a prodursi in questo balletto. Anche lievemente sinistra come cosa. Marianna Aprile. Ciao, giornalista di Oggi, esperta, conoscitrice del mondo della zona liminare che si muove fra rappresentazione televisiva e esseri umani in carne ed ossa, perché li ha sondati lungamente nella sua attività. Ecco, ti piacciono i 3 fetini che ballano? No, ma direi che oltre che non avere età non abbiamo neanche dei creativi più, perché pare che tutte le campagne, diciamo, che nascono con le intenzioni di diventare virali. Sai, quando tu appalti una campagna a una società che la subappalta a un'altra società, che alla fine finiscono in mano ugualmente a qualche ragazzino che prende una libreria di effetti tridimensionali e la sbatte lì, sai, non è che poi può venire fuori tanto. No, però è inquietante, al di là dello spot, che è inquietante insieme, è inquietante che di fronte alla promozione dell'evento forse più significativo e importante per la RAI dell'anno ci si arrabbatti in questo modo nella comunicazione, cioè Sanremo è Sanremo e fa ascolti a ma ci vedi un razionale okay, te ma... ci vedi un razionale fra gli alieni fetini, perché guarda, la campagna è importantissima di Sanremo, è sempre stata fondamentale, la studiavano dall'anno prima, i tre fetini e i quattro alieni e adesso i maialini che ballano, che c'entrano con questo mix di cui stiamo parlando? Ma assolutamente nulla, cioè nel senso è una campagna sbagliata, appunto, cioè nel senso non ci vedo, non azzarderei letture, dietrologie, eccetera, è semplicemente uno scivolone, cioè noi ancora oggi cantiamo il jingle e ce lo ricordiamo, non ci ricordiamo il vincitore dei festival degli ultimi anni, ma ci ricordiamo perfettamente il jingle degli spot pensati da Pippo Baudo. Perché Sanremo è Sanremo, oh, ma esatto. Me lo ricordo ancora, perché Sanremo è Sanremo. La cantiamo tutti appena leggiamo la parola Sanremo. Perché erano, cioè il nazional popolare lo devi saper fare e devi avere un pubblico ricettivo su quel linguaggio lì. Il maestro era Baudo, Conti ha un ruolo difficilissimo perché se, volendo diciamo incarnare e facendolo in parte anche bene il Baudo degli anni 2000, con Baudo vivente peraltro quindi ancora più difficile, tenta di ammiccare ai nuovi linguaggi, alle nuove tecnologie, eccetera, ma non sempre l'operazione riesce. In questo l'apporto della De Filippi potrebbe veramente essere un valore aggiunto. Sì, però De Filippi sa esattamente cosa vuol dire affacciarsi nel digitale, ha un suo canale dove rimanda i suoi programmi. Ha inventato tutta una serie di linguaggi che, se vuoi, sono proprio quelli che mancano a Conti. Conti è un ottimo direttore d'orchestra, ma risulta freddo, poco empatico. E se c'è una cosa che invece la De Filippi riesce, nonostante insomma, abbia la nomea di sanguinaria, arcigna, eccetera, ma la De Filippi, nonostante quella nomea lì, riesce a veicolare tutta una serie di sentimenti basic che in televisione funzionano molto e sono, se ci pensate, l'elemento che mancavano, che mancava ai Sanremo di Ma lei in assoluto è la mente più lucida della TV generalista, poi ne posso parlare con apparente disprezzo, ma la osservo semplicemente come un anatomopatologo guarda un cadavere e cerca di capire i motivi del decesso, ma non è che ho disprezzo, lei è la mente più lucida, è quella che comunque mantiene in vita questo pubblico, mi dicono 80% la gente guarda TV generalista, sì. Vediamo dove si vanno a segnare le persone guardando TV generalista, non sono certo le persone che faranno innovazione, che cambieranno il paese, che scruteranno oltre quelli che sono i limiti del nostro sguardo, che non va oltre la punta dei nostri piedi. Sì, saranno tanti, ma lì rimangono persone che rimangono ancora affezionate a uno spettacolo immutabile attraverso 70 anni, non sono persone che, dai quali ci possiamo aspettare innovazione, movimento e dinamica. Sei d'accordo? Ci pensi, la De Filippi in questo diciamo orticello qui di apparente immutabilità è riuscita a inserire dei grandi elementi di novità dal punto di vista in assoluto. Cioè, stressa il consueto, se mi passi l'espressione bislacca, cioè, è una che quel déjà vu, quei toni, quelle emozioni, quei sentimenti, le storie rassicuranti, le stressa fino all'inverosimile, fino a trasformarle in un linguaggio fondamentalmente nuovo. Infatti, diciamo che ben pensanti hanno inventato lo storytelling, lei lo faceva già da 20 anni lei, prima. Lei, ma lo storytelling però lei lo fa in italiano, capito? Certo. Non lo chiama storytelling e quello già è metà del... Che si chiama cazzate da condominio, ecco quello. Si chiama la lettera della mamma al concorrente, letta con un ritmo da un discorso di fine anno di Mattarella, cioè è una cosa... in questo veramente non ha rivali e per quello ti dico che cioè, su quel palco secondo me vedremo veramente gli alieni, ma non quelli dello spot, cioè gli alieni a confronto, il freddo glaciale fino in fondo Carlo Conti e la De Filippi in un ruolo paradossale della sanguinaria che va a portare il cuore sul palco. Senti, molti chiedono a Furor di Popolo anche i personaggi a De Filippi, la Cipollari, le signore che si scannano, i Don Giovanni da dentiera pomeridiani, li vorrebbero anche loro lì? No, vabbè, credo, spero sia una provocazione, cioè nel senso è un po' una provocazione figlia del fatto che la De Filippi in realtà non è Maria, ma incarna un mondo e se lo porta dietro. Lei ha tutta una cosa che i detrattori chiamano compagnia di giro e gli estimatori chiamano grande famiglia, di fatto ha una pletora di volti più o meno apprezzati, più o meno noti, che le girano intorno qualsiasi cosa faccia. Ma da qui ad augurarsi di vedere Tina Cipollari sul palco di Sanremo, secondo me ce ne passa, insomma, per Filippi è maestra vera di televisione. Sa esattamente fino a dove ci si può spingere. Sentiamo Mario. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Nicolini. Io volevo solo esprimere... Vabbè, il mio destino, pazienza. No, vada, prego. Prego, scusi. No, no, il mio destino. Se essere chiamato Nicolini, prego. Cambierò cognome. Vado avanti, Mirko. Ma si finisce. Allora, le volevo solo esprimere un concetto. Diciamo, non concordo con il fatto che Maria De Filippi partecipi a questo festival in maniera gratuita. Ritengo che un professionista, anche se pur in maniera simbolica, debba pretendere un compenso per la propria attività professionale e nell'ipotesi o che sia un compenso simbolico, anche un euro, o che sia un compenso allineato a quello che può essere il mercato di quel professionista in quel periodo, che poi può destinare tranquillamente in beneficenza. Sì, qualcuno mi ha scritto perché non lo dai terremotati? Sì. Ma benissimo, ben venga, guarda, io la chiamo da Perugia, quindi qua il miglior buon proposito. L'avevo capito il micocco che chiamavi da Perugia. Allora, sentiamo se... Ecco, chiarissimo. Andrea Amato, dice l'ascoltatore, sarebbe stato un coup de théâtre più importante, di Filippi avesse detto, do il mio compenso a terremotati. Beh, poi doveva dire anche quanto era il compenso, forse. Perché non l'ha fatto, secondo te? Ma perché, secondo me, non ci sono proprio arrivati, anche perché che cifra si può offrire oggi a Maria De Filippi? Discovery aveva offerto alla signora un intero canale alla Oprah Winfrey e lei a un certo punto poi nella ritrattativa con Mediaset ha rifiutato ed è rimasta a casa sua, dove sa che ha totale libertà e meno responsabilità rispetto a gestire un canale. Insomma, non sono neanche arrivati a mettere una cifra, cioè una delle prime cose che si sono detti, perché che Sassuolo va a comprare Cristiano Ronaldo, cioè non si mettono neanche a mettere la cifra. È stratosferica, cioè è la donna che tiene in piedi la TV commerciale italiana oggi, perché Mediaset non ha ancora dichiarato fallimento dal punto di vista degli ascolti grazie a lei. Diciamo, se la De Filippi decidesse per assurdo di aprire lei un canale televisivo di TV generalista, sarebbe il canale dominante, diciamo. Ma ci ha pensato a lungo con Discovery, ci hanno lavorato quasi 2 anni e poi lei, per sua stessa ammissione, io però un conto è fare contenuti, inventare format che hanno più o meno poi un filo conduttore, quello che diceva prima Marianne, appunto, un conto è gestire una rete, bilanci, una concessionaria. Vabbè, c'è che fare con i sindacati, con i dipendenti, con esatto. È una cosa impossibile, ma figuriamoci. Entrare nel management, che lei francamente... E mica è folle, mica è folle. Giustamente, infatti. È l'unica che potrebbe riuscire a riempire un palinsetto come più o meno fa su Canale 5. Grazie Andrea Amato, grazie Marianna Aprile, grazie a Marta Cagnola che uscirà bellissima dal parrucchiere. Ci sentiamo domani, perché di Sanremo abbiamo già parlato.